Cari fratelli e sorelle, nella serie delle catechesi sul Padre della Chiesa vorrei oggi parlare su una figura poco conosciuta, Romano il Melode, dalla Siria, nato verso 490 in Homs in Siria, un teologo, poeta e compositore. Appartiene alla grande schiera di teologi che hanno trasformato teologia in poesia. Pensiamo al suo compatriota San Efremo di Siria, che è vissuto 200 anni prima di lui, ma pensiamo anche a teologi dell'Occidente, Sant'Ambrogio, i cui canti sono ancora parte della liturgia nostra e toccano anche il cuore, ma un teologo, anche un pensatore di grande rigore, San Tommaso, ci ha donato linee della festa del Corpus Domini di domani. Pensiamo a San Giovanni della Croce e tanti altri. La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. E così Romano il Melode è uno di questi, un poeta e compositore teologo. Lui ha preso i primi elementi di cultura greca e siriaca nella sua città nativa. Poi si trasferì a Beirut, perfezionandovi l'istruzione classica e le conoscenze retoriche. Fu ordinato diacono permanente più o meno nel 515 e qui predicatore per 3 anni. Poi si trasferì a Costantinopoli e lì si stabilì nel monastero presso la chiesa della Madre di Dio. Qui ha avuto luogo l'episodio chiave della sua vita, l'apparizione in sogno della Madre di Dio e il dono del carisma poetico. Le fonti ci dicono che Maria gli ingiunse in un sogno di inchiottire un foglio arrotolato. Risvegliatosi, Romano, il prossimo giorno era la festa della Natività del Signore, declamò a lambone: oggi la Vergine partorisce il trascendente, e divenne così omelita cantore fino alla morte nel 555. Romano resta nella storia come uno dei più rappresentativi autori di inni liturgici. L'omelia era allora per i fedeli l'occasione praticamente unica di istruzione catechetica. E Romano si pone così come testimone eminente del sentimento religioso della sua epoca, ma anche della maniera vivace e originale della catechesi. Attraverso le sue composizioni possiamo renderci conto della creatività di questa catechesi, della creatività del pensiero teologico, dell'estetica, dell'inografia sacra di quel tempo. Il luogo in cui Romano predicava era un santuario di periferia di Costantinopoli. Egli saliva a lambone, posto al centro della chiesa, e parlava alla comunità, utilizzava raffigurazioni murali o icone disposte sul lambone e ricorreva anche al dialogo. Le sue omelie non erano proprio omelie, erano collocate tra Vangelo e omelia e erano metriche cantate, detti kontakia in greco. Questa parola kontakion significa piccola verga e rinvia al bastoncino attorno al quale si avvolgeva il rotolo di un manoscritto liturgico e di altra specie. I kontakia, questi canti giunti a noi sotto il nome di Romano, sono 89. La tradizione gliene attribuisce 1000. Un esempio significativo ci è offerto dal Contakion per il venerdì di Passione. È un dialogo drammatico tra Maria e il figlio che si svolge sulla via della croce. Dice Maria: dove vai, figlio? Perché così rapido compi il corso della tua vita? Mai avrei creduto, figlio, di vederti in questo stato, né mai avrei immaginato che a tal punto di furore sarebbero giunti gli empi da metterti le mani addosso contro ogni giustizia. Gesù risponde: perché piangi, madre mia? Non dovrei patire? Non dovrei morire? Come dunque potrei salvare Adamo? E poi il figlio di Maria consola la madre, ma la richiama al suo ruolo nella storia della salvezza e dice: depone dunque, madre, depone il tuo dolore. Non si addice a te il cimere, perché fosti chiamata piena di grazia. Romana adotta non il greco bizantino solenne della corte, ma un greco semplice vicino al linguaggio del popolo. Un esempio del suo modo vivace e molto personale di parlare sul Signore Gesù vorrei qui citare. Chiama Gesù fonte che non brucia e luce contro le tenebre e dice: io ardisco tenerti in mano come una lampada. Chi porta infatti una lucerna fra gli uomini è illuminato senza bruciare. Illuminami dunque, tu che sei la lucerna inestinguibile. La presentazione, diciamo la forza di convinzione delle sue predicazioni era fondata nella grande coerenza tra le sue parole e la sua vita. Anche per questo una parola sua. Dice in una preghiera: rendi chiara la mia lingua, mio Salvatore, apri la mia bocca e dopo averla riempita trafficci il mio cuore, perché il mio agire sia coerente con le mie parole. Alcuni dei suoi temi principali, un tema fondamentale della sua predicazione, è l'unità dell'azione di Dio nella storia, l'unità tra creazione e storia della salvezza, l'unità tra Antico e Nuovo Testamento. Un altro tema importante è la pneumatologia, cioè la dottrina sullo Spirito Santo. Nella festa di Pentecoste sottolinea la continuità, anche qui la continuità che vi è tra Cristo asceso al cielo e gli Apostoli, cioè la Chiesa, e ne esalta l'azione missionaria nel mondo e dice: con virtù divina hanno conquistato tutti gli uomini, hanno preso la croce di Cristo come una penna, hanno usato le parole come reti e con esse hanno pescato il mondo. Hanno avuto il Verbo come amo acuminato, come esca è diventata per loro la carne del sovrano dell'universo. Altro tema centrale è naturalmente la cristologia. Lui non entra nel problema dei concetti difficili della teologia, tanto discussi in quel tempo, che anche tanto lacerato l'unità non solo tra i teologi ma tra la Chiesa. Lui predica una cristologia semplice ma fondamentale, la cristologia dei grandi concili, ma soprattutto è vicino alla pietà popolare e, diciamo, i concetti dei concili sono nati della pietà popolare, della conoscenza del cuore cristiano. E così sottolinea che Cristo è vero uomo e vero Dio, essendo vero uomo Dio è solo una persona, la sintesi tra creazione e creatore, e nelle sue parole umane sentiamo parlare il Verbo di Dio stesso. Cristo, dice, era uomo, ma era anche Dio, non diviso in due, è uno figlio di un padre che è uno solo. E finalmente, quanto alla mariologia, grato alla Vergine per il dono del carisma poetico, Romano la ricorda alla fine di quasi tutti gli inni e dedica i suoi contatti più belli, Natività, Annunciazione, Maternità Divina, Nuova Eva. E finalmente gli insegnamenti morali si rapportano al giudizio finale. Lui spetta verso questo momento della verità della nostra vita, del confronto con il giudice giusto e perciò ammonisce alla conversione, nella penitenza, nel digiuno e alla carità, che ha per lui l'assoluto primato di tutte le virtù. E gli accento il primato della carità in due inni, le nozze di Cana e le dieci vergini, e cito un passo di questo ultimo inno dove dice: dieci possedevano la virtù dell'intatta verginità, ma per cinque di loro il duro esercizio fu senza frutto. Le altre brillarono per le lampade dell'amore per l'umanità e per questo lo sposo le invitò. Umanità palpitante, ardore di fede, profonda umiltà pervadono i canti di Romano il Melode, e questo grande poeta e compositore ci ricorda tutto il tesoro della cultura cristiana nata dalla fede, nato dal cuore che si è incontrato con Cristo, col Figlio di Dio. Da questo contatto del cuore con la verità che è amore nasce la cultura, è nata tutta la grande cultura cristiana. E se alla fede rimane viva, anche questa eredità culturale non diventa una cosa morta, ma rimane viva e presente. Le icone parlano anche oggi al cuore credente, non sono solo cose del passato. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. E la grande musica, il Gregoriano o Bach e Mozart, nella Chiesa non sono cose del passato, ma vivono nella vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi: cantate al Signore un cantico nuovo, creatività, innovazione, canto nuovo, cultura nuova e presenza di tutta l'eredità culturale nella vitalità della fede non si escludono, ma sono una unica realtà, sono presenza della bellezza di Dio, della gioia di essere figlio di Dio. Grazie.